Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, compagni e compagne. E niente, volevo ricordare un paio di appuntamenti, uno per questo fine settimana, domani mattina alle 10:30, cioè un'assemblea pubblica all'imbocco del villaggio Ardeatino, via Ardeatina, chilometro 25, e questa assemblea pubblica è stata indetta dai comitati contro la discarica all'inceneritore di Albano per testare e più che altro per chiedere spiegazioni e delucidazioni rispetto al paventato, alla paventata riapertura del settimo invaso della discarica di Roncigliano. E in questi giorni amministrazione locale di Albano, ma anche quella dei comuni limitrofi, hanno smentito l'intenzione regionale di riaprire il settimo invaso ai rifiuti trattati, in particolare quelli trattati dalla Rita Ambiente ad Aprilia, e niente, quindi i cittadini e comitati della zona hanno convocato questo presidio. Caso strano però ha voluto che per la prima volta dopo circa 10 anni di iniziative lì nel quadrante della discarica di Roncigliano, l'azienda Pontina Ambiente, che è la proprietaria della discarica, si è opposta al fatto che noi utilizzassimo il piccolo piazzale antistante il cancello della discarica, che si trova lungo il bordo della via Ardeatina, per fare questa assemblea. Non è mai successo negli ultimi 10 anni. E li avete infastiditi, evidentemente. Ma rimaniamo un po' perplessi, poi tra l'altro, cioè nei 10 anni precedenti che la discarica funzionava a più non posso, con conseguenze disastrose, non hanno mai fatto una smorfia. Adesso che la discarica è chiusa, il capannone dove si faceva il trattamento dei rifiuti è andato distrutto nell'incendio del 30 giugno 2016, quindi il sito praticamente è in semiabbandono, la Pontina Ambiente manifesta dei malumori che in passato non ha mai manifestato, nemmeno quando il progetto di inceneritore è andato a farsi fortunatamente benedire definitivamente, e nemmeno quando Maglio Cerroni fu arrestato e inquisito per truffe varie a enti pubblici rispetto alle tariffazioni sullo smaltimento dei rifiuti. E quindi insomma un elemento in più di perplessità che non riusciamo bene a interpretare, però quello di cui siamo sicuri è che c'è uno scontro tra la Rita Ambiente di Altissimi ad Aprilia e le aziende di Maglio Cerroni. Sicuramente la Pontina Ambiente non vuole che Altissimi scarichi i rifiuti da lui trattati dentro la sua discarica, Cerroni vuole che insomma tutto rimanga in casa, e niente, però a livello regionale la necessità di un sito dove smaltire i rifiuti del comprensorio dei Castelli e anche della città di Roma diventa insomma sempre più necessario. E quindi noi insomma abbiamo raccolto informazioni in merito che ci hanno spinto a convocare questa assemblea per domani mattina dalle 10:30 all'imbocco del villaggio Ardeatino, che poi si trova a circa 200-300 metri dalla discarica, dal cancello della discarica vera e propria. Poi altro appuntamento, sempre questione rifiuti, martedì 29, sempre in mattinata agli uffici della Regione Lazio, via del Caravaggio, cioè la prima conferenza dei servizi per una proposta di discarica. La discarica si chiama Ecosicura, quindi il nome è tutto un programma che si vuole costruire ad Aprilia. Comitati e cittadini di Aprilia, ma anche noi di Albano, visto che è un luogo che si trova a 3 km in linea d'aria dalla discarica di Roncigliano, insomma si troveranno in presidio tutti gli uffici della Regione a via del Caravaggio martedì 29 in mattinata. E questi insomma sono i due appuntamenti che volevo ricordare a tutti quanti. E insomma hai fatto benissimo, e ti ricordo, magari tu non lo sai, che su questa radio c'è una trasmissione che si chiama Impatto, che viene onda tutti i lunedì, che appunto tratta proprio di queste tematiche, che non mancherà di ricordarci sia l'appuntamento di martedì sia quanto è avvenuto per questo presidio. Quindi ti ringraziamo tantissimo di questa corrispondenza. Ti salutiamo. Okay. E chissà, magari lunedì ti risentiremo ancora su queste frequenze. Sì, magari lunedì mi sintonizzo per ascoltare Impatto. Va bene, e allora grazie tantissimo e a presto. Ciao ciao. Grazie a te e auguri a Radio Onda Rossa che ieri ha compiuto 41 anni, insomma, auguroni. Ok, grazie ancora. Ciao ciao. Ciao ciao.